prima di tutto per la forma, il modo e le circostanze nelle quali è avvenuta la crisi del governo Conte, secondo, e poi la nomina del governo Draghi e la sua larga maggioranza. Il metodo seguito per questo avvicendamento di governo ha da un lato delegittimato l'intero ceto politico, e devo dire, apro parentesi, che questo si è riflesso anche nel stesso linguaggio usato da Zingaretti per dimettersi, quindi una delegittimazione a tutto tondo del ceto politico italiano nella sua totalità, e dall'altro un processo di avvicendamento del Presidente del Consiglio che è avvenuto, diciamo così, stiracchiando la nostra Costituzione, soprattutto quelle parti relative, come l'articolo 48, relative all'importanza della responsabilità dei cittadini attraverso i loro partiti come condizione fondamentale per esprimere un governo. Questo ha per noi significato non una rottura costituzionale, ma una diversione, un andare verso una concezione del governo democratico più tecnocratico, meno politico. C'è il rischio, insomma, che si cerchi l'uomo della provvidenza? Oggi sì, perché c'è anche la crisi pandemica che lo giustifica, ma soprattutto ci si immetta in un cuneo, in un discorso nel quale la politica non sembra più adatta a risolvere i problemi della vita sociale, mentre altre correnti, per esempio le discipline economiche monopensiero o le tecnica di costi-benefici delle analisi finanziarie ed economiche come la soluzione, il metodo per risolvere tutti i problemi, dando alla legittimità solo quella funzione di voto successivo. Il sostegno del Parlamento viene dopo, non viene, il Parlamento non è la sorgente di questa costruzione del governo, ma è quella assemblea che dirà sì e no a quello che il governo produrrà di sua sponte e autonomamente, senza spesso consultare appunto la compagine politica. Sì, è una direzione presa verso una soluzione o una forma di governo tecnocratico. In questa chiave dobbiamo interpretare anche l'affidamento di, insomma, una revisione del recovery plan a McKinsey? Sì, ora il rapporto con le corporations che offrono servizi di consulenza non è di questo governo, non è nuovo e non è né un problema di cui preoccuparsi o comunque grave in sé. Lo diventa e diventa un problema di cui noi vogliamo sapere, discutere, e noi vuol dire tutti i cittadini, quando non solo la soluzione di specifici casi, ma addirittura l'indirizzo generale per la rinascita di un paese viene affidato alla ricerca dei dati, alla valutazione dei progetti e quindi all'indirizzo che deve essere dato il piano, come se noi andassimo alla ricerca, noi il governo in questo caso, da una azienda che produce dati ed elabora dati in ragione di alcuni criteri che sono i criteri della efficienza economica in relazione ad una struttura di capitalismo globale finanziario che stabilisce la norma alla quale affidarsi per, diciamo, indirizzare il nostro futuro piano di rinascita. Lei prima ha citato Zingaretti, le volevo chiedere se secondo lei le sue dimensioni si inseriscono dentro a questa deriva su cui voi lanciate l'allarme e quali sbocchi potrebbero avere. Nicola Zingaretti è giunto a questa sua decisione probabilmente all'interno di un lungo processo di difficoltà che ha avuto al suo interno, perché quel partito ormai, più che un partito, diciamo, radicato sul territorio, è un partito che sta segregato dentro una sede nazionale con tutti i suoi vari notabilati o fazioni. Quindi lui ha dovuto riflettere la difficoltà e ha riflettuto sulla difficoltà della sua posizione, ma il modo col quale ha annunciato le sue dimissioni è sintomatico di una malattia profonda della nostra leadership politica. Primo, perché ha scelto i social, ovvero una linea tutta, diciamo, privata e non dentro le istituzioni e gli organigrammi o comunque le procedure del partito. Secondo, perché ha usato un linguaggio che per una leader che sta dentro una leadership e la guida, e lui ha detto detto che si trattava di un partito che pensa solo alle poltrone, ha gettato e ha contribuito a gettare un critica maggiore al partito in generale, a tutti i partiti in generale, come luoghi affamati e famelici. Probabilmente è vero. Tuttavia, un leader politico che dice questo mi sembra sia molto, diciamo, non sufficiente. Occorre avere un'analisi politica delle ragioni della sua dimissione, che non possono essere il desiderio di una poltrona. Spieghi meglio cosa vuol dire, cosa significa. Significa che ci sono delle fazioni correnti che impediscono una visione collegiale del partito? Se significa questo è un ragionamento politico fondamentale da farsi. Ecco, quindi, per noi questa diffusione di un'idea negativa della politica purtroppo si riflette anche in queste dimissioni.